America 24 di Mario Platero. We should not, in a country like the United States of America, have to have people deciding between keeping their house and keeping their health care. And what the president will sign tomorrow, very much the promise of affordable, accessible health care. Non dovremmo decidere fra tenere la casa e permettersi un'assistenza sanitaria. Chi parla è Robert Gibbs, il portavoce di Barack Obama. I leader ieri si sono tenuti dietro le quinte dopo la straordinaria apparizione a tutto campo di domenica, dopo la vittoria storica per la riforma sanitaria. È arrivato il momento, diciamo, di dare gli annunci tecnici. L'annuncio più importante: fra un paio d'ore, forse fra tre ore, alla Casa Bianca ci sarà la firma formale del progetto di legge per la riforma sanitaria. Ci sarà una coreografia storica, ci sarà Barack Obama a svolgere il suo ruolo di leader affermato, di politico che finalmente ha mantenuto le sue promesse, la promessa del cambiamento, quella promessa che poi non era riuscito a mantenere per almeno un anno, 13 mesi ormai, della sua presidenza, con pochi risultati. Ma c'è qualcosa di più al di là degli aspetti coreografici. C'è un significato politico di questa vittoria. Barack Obama ha vinto in modo atipico per lui. È considerato un uomo prudente, un uomo che cerca sempre il dialogo e che magari fa un passo indietro. È stato attaccato sulla stampa persino da Maureen Dowd, che è democratica, una delle grandi columnist del New York Times. Lo chiamava mollaccione, lo punzecchiava, dicendo che era più come Mr. Spock, l'eroe celebrato di Guerre Stellari, che non come un vero leader. Ebbene, oggi Barack Obama smentisce tutti, perché con questa riforma sanitaria si è giocato il tutto per tutto, e questo agli americani piace. Hanno scoperto in lui la capacità di prendere un rischio assoluto, capacità insospettata che non gli conoscevano. Ci sono tre percorsi nuovi a questo punto che fanno capolino nell'orizzonte politico di Barack Obama. Ci sono le elezioni di novembre e poi ci sono le elezioni per la conferma del secondo mandato. I suoi strateghi stanno ragionando a lungo termine, e la novità importante di questa vittoria è che Barack Obama ha portato da una parte il cambiamento e continuerà sulla strada del cambiamento, dall'altra è riuscito ad attribuirsi quella aureola storica, diciamo, quella percezione di aver compiuto un passo storico importante, cosa che produce un effetto traino straordinario e che dunque cercheranno i suoi strateghi di ottenere di nuovo. Infine, fatto molto importante, Barack Obama da oggi ha un controllo sul suo partito che prima non aveva. Il partito era disordinato, è stato in qualche modo abbandonato questo presidente dai suoi compagni che litigavano fra Camera e Senato per come impostare questa riforma sanitaria. Il voto doveva esserci a dicembre, hanno rimandato, ciascuno pensando al suo interesse fra virgolette privato, e nel frattempo che è successo? Hanno perso il seggio di Ted Kennedy e si sono trovati in difficoltà. A quel punto Obama è andato avanti fino in fondo e ha dimostrato davvero qualità di leadership che ancora non gli erano riconosciute. Bene, viste le cose politiche, vediamo l'impatto economico. Abbiamo con noi Alberto Bisin, professore di economia alla NYU, New York University, e andiamo direttamente al punto. C'è un vantaggio economico da questo piano? Si parla di 940 miliardi di dollari di spesa e di 138 miliardi di risparmio sul disavanzo su base decennale. È vero? Ci crede? È vero, nel senso che i dati non sono dati dall'amministrazione, sono dati del Congressional Budget Office, quindi sono dati, diciamo così, indipendenti. Quindi, per come sta la legge in questo momento, questi sono i risultati fiscali. Naturalmente le spese vengono prima e i vantaggi per il fisco vengono dopo, diciamo così, quindi poca gente ci crede. La ragione per cui ci sono dei vantaggi fiscali è che, o dei risparmi fiscali meglio, è che ci sono delle tasse implicite nel bill, ce ne saranno altre, e le spese, ci sono degli elementi di riduzione della spesa a cui poca gente crede, insomma, quindi c'è un dubbio da quel punto di vista. Ma qual è l'impatto invece sulle persone, quelle che oggi non hanno l'assicurazione e che quindi l'avranno? Ci sono due tipi di persone che non hanno assicurazione. Ci sono quelli che, diciamo così, non ce l'hanno perché non la vogliono, perché sono relativamente sani giovani tipicamente, e l'assicurazione in questo paese costa moltissimo, e vabbè, su questi c'è un effetto ovviamente, perché avranno assicurazione, cercheranno di non averla, ma insomma la legge come è strutturata li costringerà a farlo, quindi queste persone comunque avranno un'assicurazione, andranno più dal medico, saranno curate, però queste sono persone per cui i vantaggi sono relativamente marginali. I grossi vantaggi sono per quelle persone che non hanno assicurazione, tipicamente oggi negli Stati Uniti, perché perdono lavoro. Oggi l'assicurazione è legata, nella stragrande maggioranza dei casi, è legata al posto di lavoro, e quindi chi si ammala spesso purtroppo perde il posto di lavoro, perdendo il posto di lavoro perde l'assicurazione, e quindi questa è una cosa assolutamente drammatica. Ecco, molta gente è scontenta del progetto di riforma, perché? Temono di pagare più tasse? Sì, dunque in generale il progetto di riforma avrà dei grossi costi, la gente si aspetta quindi maggiori tasse, oltretutto non c'è solo questo aspetto, ma c'è anche l'aspetto che in generale gli americani tendono ad avere una posizione ideologica molto contro gli interventi del governo, quindi in questa legge non c'è solo il fatto che ci sono altri costi fiscali, ma anche il fatto che il governo avrà un maggior diretto effetto sulla struttura del sistema sanitario. And so with again humility and pride and great optimism for what will happen in the next week, I'm pleased to yield to our distinguished majority leader. Ecco l'altro grande protagonista di questa vittoria, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi saluta la leadership del presidente Obama, la leadership dei suoi compagni al Congresso, ma soprattutto dovrebbe ringraziare la sua di leadership, questa donna italo-americana della California, di San Francisco, che proviene da una famiglia politica. Il padre era sindaco di Baltimora, è cresciuta nel Maryland, ci sono leggende che si narrano sulla sua storia politica. Nancy Pelosi aveva detto che avrebbe guidato la Camera con il sorriso, in effetti è elegantissima, è sempre straordinariamente gentile, eppure alla fine ha guidato la Camera come un mastino, ha affermato la sua tradizione di liberal di sinistra, è riuscita a difendere le sue posizioni politiche pur avendo capito che alla fine su qualche cosa bisognava cedere, su qualche cosa occorreva trovare il compromesso in prima battuta sulla sua rinuncia alla opzione pubblica, e cioè all'offerta da parte dello Stato di un programma autonomo rispetto alle assicurazioni private per l'assicurazione sanitaria. E dunque oggi alla firma, fra poche ore, oltre a Barack Obama, sul podio d'onore ci sarà anche lei, questa italo-americana che tra l'altro non manca mai gli avvenimenti dedicati agli italo-americani, è sempre alle cene del NIAF, la National Italian American Foundation, è intervenuta spesso alla parata di Cristoforo Colombo qui su Fifth Avenue, e quindi orgogliosissima, lo dico davvero perché l'ho incontrata e ho spesso parlato di questo con lei, orgogliosissima, dicevo, delle sue origini italiane, del suo ruolo di italo-americana. E ci sarebbero a questo punto mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli, e vi suggerisco di andare a cercare per esempio l'ultimo sviluppo su Google con la Cina, su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ad aprile uscirà Congratulations, il nuovo album degli MGMT, band di Brooklyn, che dovrà confermare lo straordinario successo del disco di esordio del 2007, Oracular, Spectacular. La band, il complesso, ha però deciso di anticipare i tempi e ha messo a disposizione dei fans l'intero album in streaming sul proprio sito. In anteprima lo potete sentire qui su America 24. La canzone che vi propongo è Kids, il maggiore successo del duo di Brooklyn. È tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.